gira la rota e gagna la luna. Mai con gli stessi va la fortuna. Solo sta vita ne ingagna mai, ancora per mille anni all'aura. Ci sta chi vive dentro una reggia, noi ne tenimo manco una seggia. Ma siamo tutti de una maniera, per tutti se fa giorno e se fa sera. Padri e mamma quando hanno nati, mezza una vigna gli hanno fasciati, banca e zappone per gioia. Te fai abito a Laura. Come i signori tenimo fame, come i signori tenimo sete, come i signori tenimo le mani, ma noi la dovremo per zappà. Mamma quando hanno nati, mezza una vigna gli hanno allattati, e con i lati a una canestra, sotto una pianta di ginestra. Mani, mani, io, mani, mani, io, dimmi la via per gli atterauri, io. Te spenne case, mamma se gira, se no t'acchiappa io tira tira. Gira la rota e cagna la luna. Mai con gli stessi va la fortuna. Solo sta vita ne incagna mai, ancora per mille anni all'ora, ancora per mille anni all'ora.